Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, la nuova poesia di Luca Sardo Giambonino dal titolo Marca Piova. Oggi buio e nuvoloso è il tempo, sferza una gelida aria dall'est, di giacche e giubbini è giunto il momento. Passata d'incanto la bella stagione, ci troviamo ora nella via di mezzo, quando il sole tiepido scalda ma non più a sufficienza, ed il tempo è sempre lì lì, come si suol dire. Ah, quanto è bella questa stagione sulla città mia, dovreste vederla per rendervene conto.